Wall Street, i viaggi del lupo. Ed eccoci qua, una nuova puntata di Wolf Trips. Sono le 20.04 ed è venerdì 1 dicembre. Io sono Sara, non ci sentavamo da un po'. Qua giusto, fianco a me c'è Cristina. Ciao. E dall'altra parte abbiamo il signor Domenico. Ciao. Presentatore noto. Hai visto? Di Wolf Trips. Oggi è il primo di dicembre, quindi finalmente siamo arrivati nell'ultimo mese dell'anno. Meno male, dai. Era ora. Almeno ci togliamo dalle scatole questo 2017, dai. Oggi abbiamo perso Fabio, che è ancora da buffarsi. Ma io non lo so, ma questi giovani di oggi. Vabbè, dai, deve fare le cene aziendali lui. Sì, arriverà così. Natale, Sì, arriverà e continuerà a farle, perché appunto. Poi dopo ci sono quelle del 2018, di cene varie. Vero, va bene. Oggi non abbiamo ospiti, oggi siamo solo noi tre, non c'è nessuno a trovarci. Però va bene così, dai. Va bene così, sì. Vabbè, sì, abbiamo qua una parte del blog Bioma Terra. Sì, giusto. Il solito blog. Infatti, ma non lo so io. Dai, iniziamo subito con un po' di musica, che poi parliamo di un po' di cose che abbiamo scovate in giro per la rete, visto che Wolf Trips nei viaggi in giro per il mondo. Infatti, per il mondo. Intanto in tutto il mondo nevica, tranne qua. Senti, che te devo dire. Andiamo a ascoltare il prossimo brano. Sara, guarda un po' chi è l'artista. Eccolo qua. Macklemore. L'hai visto? Kesha. È il pezzo nuovo. Andiamo a ascoltarcelo. I wish somebody would have told me that someday these will be the good old days. All the love you forget and all these reckless nights you regret. Someday soon your whole life's gonna change. You'll miss the magic of these good old days. I was thinking about the band, I was thinking about the fans. We were underground, loaded merch in that 12 passenger van. In a small club in Minnesota, and the snow outside of First Ave. I just wanted my name in the star. Now look at where we at, still growing up. Still growing up. I would lay in my bed and dream about what I'd become. Couldn't wait to get older, couldn't wait to be some. Now that I'm here, wishing I was still young. Those good old days. I wish somebody would've told me, babe, that someday these would be the good old days. All the love you won't forget and all these reckless nights you won't regret. Cause someday soon your whole life's gonna change. You'll miss the magic of the good old days. Wish I didn't think I had the answers. Wish I didn't drink all of that glass first. Wish I made it to homecoming. Got up the courage to ask her. Wish I would've gotten out of my show. Wish I put the bottle back on that shelf. Wish I wouldn't have worried about what other people thought. I felt comfortable with myself. Rooftop open and the stars above. Moment frozen, sneaking out and falling in love. Me, you and that futon, we just begun. On the grass dreaming, figuring out who I was. Those good old days. I wish somebody would've told me, babe, that someday these would be the good old days. All the love you won't forget and all these reckless nights you won't regret. Cause someday soon your whole life's gonna change. You'll miss the magic of the good old days. Never thought we'd get old. Maybe we're still young. Maybe you always look back and think it was better than it was. Maybe these are the moments. Maybe I've been missing what it's about. Been scared of the future, thinking about the past while missing out on now. We've come so far, I guess I'm proud. And I ain't worried about the wrinkles around my smile. I got some scars, I've been around. I felt some pain, I seen some things, but I'm here now. Those good old days. You don't know what you got, whoa, till it goes, whoa, till it's gone, whoa, you don't know, whoa, what you got. Vabbè, abbiamo iniziato tranquilli con questo pezzo qua. Sì, sì, sì, intanto ricordiamo il titolo, Macklemore feat. Kesha, Good Old Days. Sì, sì, a me non dispiaceva, era un pezzettino no, tranquillo. No, bello, sì, sì, l'ho nulla fischiettato di... nel frattempo, quindi... Nulla di esagerato, dai. Soft, e... very soft, quindi... Lui aveva fatto un sacco di pezzi veramente belli. Sì, il primo che ha fatto mi è piaciuto veramente tanto, Thrift Shop, anche il video è bello. Sì, sì, anche sì, Can't Hold Us è molto bello, sì, il video. Sì, sì, sì, sì, una delle questo mie preferite. Questo video ancora non l'abbiamo visto, quindi... Beh, lui è sempre, io l'ho visto ed è sempre conciato con, sai, col pellicciotto, oh, solito... Vabbè, vabbè. È di moda. Non, ma non lo so, lui che è un po' lui, è, vedi, esatto, è conciato così, è lui, ah, che lancia, sì, le sue mode. È un po' particolare, sì, esatto. Vedi, c'ha questo pellicciotto e boh, sì, è un po' un personaggio, dai. Beh. E viene dall'aspetta che mi ero anche istruito sulla cosa e viene dagli Stati Uniti, però origini irlandeti. Seattle. Irlandeti? Irlandesi, ok. Che fa freddo, che fa freddo, mi devo ancora. Siamo anche a venerdì riprendere sera dopo una dura settimana. No, no, ma devo dire la verità, c'è un po' di freddo ancora, quindi devo ancora riprendermi. Diciamo freddo, la verità, non hai più il fisico. Non ho dai più il fisico, c'ho freddo, tutte queste cose qua. Ma tu avevi trovato qualche notizia interessante, sì, giusto? Sì, caspita, avevo trovato una notizia proprio di quelle che dici, ma com'è possibile? Cioè, praticamente in Siberia... Quindi ci spostiamo in Russia, giusto? Quindi ci spostiamo in, sì, una, sì, in un luogo dove ha nevicato. Ah, mannaggia sta neve. C'è chi l'aspetta... Speriamo che non arrivi mai, ok. Ma se stanotte dovesse nevicare, io starei bene bene con la finestra aperta. Pure, vabbè. No, no. Vabbè, comunque in Siberia, cos'è successo? Un uomo è andato a caccia. Sì. Alloggiava in questo, in questa taiga, no? In questa baracca di legno. Insomma, ha appoggiato i fucili e ha appoggiato tutto il suo sacco con la roba. Quindi era un cacciatore, ed immagino. È andato a procurarsi dell'acqua. Ok. Quando è tornato, cos'è successo? C'era, si è trovato dentro a questa taiga, dentro questa baracca, un orso. Ai ai ai. Ma questo orso... No, ma questo orso, sai cosa ha fatto? Gli ha fregato i fucili. E se n'è andato? Basta. Sì, se n'è andato. Si vede che uno era un orso poi l'ha cacciatore trovato, esatto, ha trovato solo un fucile su tre e gli altri due non si sa. Quindi ma si vede che probabilmente gli orsi si sono... anche l'orso è andato a caccia. Infatti gli orsi si sono evoluti per cacciare i salmoni, utilizzano il fucile, non li prendono più con le mani. Infatti, infatti. A parte che non credo che in Siberia ci siano i salmoni, cioè... Come no? Sarà, salmoni d'acqua. Ma che tipo di orso è? Bruno? Non si dice, non c'è scritto niente. No, non si sa, no, non si sa. Vabbè, sì, no, sì, non l'avevo è letto dato anch'io saperlo. L'avevo letta anch'io questa bellissima notizia. Beh, andiamo a ascoltare il prossimo brano che poi dopo ho un argomento da lanciare per la serata. Sì, sì, sì, visto che si avvicina a Natale. No, shopping natalizio no. No, no, no, no, è qualcos'altro, è qualcos'altro. Vabbè, ascoltare... la prossima canzone chi è? Vai, lanciala tu, dai. È questa, aspetta, è questa. Sì, ho capito, è quella Curtis vecchiaia. Sì? Harding, sì? Need Your Love. Ok, perfetto, andiamo a ascoltarcela. Non ho gli occhiali. Thank you. Ecco, questo ci siamo un po' ripresi, dai, che sì, ci stiamo un po' scaldando. Sì, sì. Tra l'altro stavo vedendo che l'artista che era Curtis Harding, che definisce la sua canzone, la sua musica in realtà slop and soul, non so cosa voglia dire, tipo musica incasinata. Che genere? Musica incasinata. Perfetto. Sì, musica incasinata. Tra l'altro è stato in concerto al Magnolia il 26 novembre, quindi a Milano, pochi giorni fa. Domenica scorsa. Beh, dai, sì. 15 euro l'ha costato, bene. Tu vai al risparmio. No, beh, guarda che, cioè, ad esempio, artisti come Levante non è che ti costano 30 euro, oh. Per dire, quindi solo io becco quelli dai 50 in su. Tu andrai a vedere, che ne so, Ligabue, no? Sì, infatti. Quelli costano, fai vedere Rihanna, costano 80 euro. Ricordo ai miei colleghi della radio di chiudere il Facebook quando lo utilizzano. Perché, vabbè, io sono magnanimo e non scriverò nulla, ma forse è meglio chiuderlo, vabbè. Stiamo parlando un po' di Natale. Guarda che anche tu, non è che... No, una volta sola mi è successo, dai. Allora, parliamo di Natale. Natale, eccoci. A me non piace. Come non piace? No, perché, cioè, devi stare a casa, devi mangiare. No, ma la cosa bella del Natale, regali, film, ma la cosa bella del Natale non è il Natale, è l'arrivo. E mamma ha perso l'aereo. È una poltrona per una due. Una poltrona per due. Poi qual è che è? Infatti, infatti l'argomento, se non me lo bruci subito, erano i film di Natale. Tra cui mamma ha perso l'aereo. Noi ci siamo visti l'altra sera. Mamma ho riperso l'aereo, tra l'altro, perché l'hanno rifatto pochi giorni fa. Poi e diciamo che fa sempre ridere. Sì, e Tile extraterrestre. Dai, periodo di Natale per forza. Questo ma quello lo fanno qualche giorno, forse alla vigilia. Sì, comunque sì. Giù di là. Poi Christmas Carol, che in realtà non l'ho mai visto. Io devo dire Christmas Carol, vero? Io la vedevo da piccola. Sì. Miracolo sulla 24esima strada. Una poltrona per due. Miracolo sulla 24. Insomma, ci sono dei film. Una poltrona per due, cioè, eccolo qua. Miracolo è classico. È classico della vigilia di Natale. Mi danno anche Labyrinth, che è film di David Bowie. Mai visto. No, in realtà no, non è vero, non l'ho mai visto. L'ho visto, però non l'ho mai visto nel periodo di Natale. Infatti, non mi sa di Natale. Non erano proprio piccole donne. Ma io direi, ecco, The Nightmare Before Christmas, Tim Burton. Questo sì. Questo è bello. Tim Burton, tra l'altro, sono molto belli. A me piacciono un sacco i film di Tim Burton. I film di Tim Burton. Sì, perché hanno quell'atmosfera cupa. Vero, vero. Fantasy, bello. Beh, comunque, ti ripeto, cioè, più che il Natale, è bella proprio l'atmosfera che deve arrivare a Natale. Il problema è che ultimamente la stanno anticipando sempre un po' troppo. Sì, troppo. Cioè, adesso, dall'1 dicembre in avanti, mi va bene. C'è da cominciare a pensare all'albero di Natale. Natale, al presepe. E mi tira giù il microfono. Va bene, ok, grazie. C'è una nuova canzone su Wolf Trips. Quando si arriva a una certa età non si ha voglia neanche di fare il presepe, l'albero, quindi. Io non c'ho più voglia. Hai perso la magia del Natale. Allora, andiamo ad ascoltare un nuovo pezzo di Wolf Trips. Questa era una new entry come gli altri due. È Felix Jaen. Hot to Touch dovrebbe essere il brano, ma spero di non aver sbagliato. Così andiamo un po' a movimentare un po' la serata. Sì, no, perché i nomi sempre difficili da azzeccare. And playing it cool. My heart like a broken cassette echoes in my chest. We're getting close. We're getting close. But she's too high to touch. She's too high to touch. She's care what I lose. And I'm dying just to prove it. But she's elusive. No matter what I do, my love is easy for you. Setting the rules and playing it cool. My heart, like a broken cassette, echoes in my chest. We're getting close, but she's too hot to touch. Me feel like burning, burning up. No, you can't stop the hurting. Too hot to touch. You make me feel like burning, burning up. No, you can't stop the hurting. Too hot to touch. No. She's too hot to touch. She's too hot to touch. She's too hot. Questa era bella movimentata. Bella, dai. Bella, mi è piaciuta, mi è piaciuta. Questa, dai, secondo me la qua. La sentiremo spesso questa. Pensavo volessi mettere canzoni di Natale, dato che sai. No, no, no, no, guarda. Dai, ancora presto. Michael Bublé su. A palla. E infatti c'era ancora il non è uscita la nuova canzone su, C'era il meme proprio che diceva oggi è il primo dicembre e ancora Michael Bublé non è uscito con la nuova infatti, canzone. Infatti, infatti, l'ho vista anch'io. Intanto volevo chiedere ai nostri ascoltatori cosa, che programmi avevano per la vigilia di Natale. Mangiare, che programmi devono avere? Sì, vabbè, magari uno va in, che ne va so, in va montagna, in montagna, va al mare, va ai Caraibi, cioè. Magari vai ai Caraibi veramente. Magari. Ci potete rispondere al 338-222-8983. Così sentiremo anche le vostre... La vostra mancanza. Eh beh, ovviamente se vanno via non, eh beh, infatti, non ci ascoltano. Giusto, giusto, giusto, giusto. Anche ascoltano perché... Ascoltano in podcast. Adesso non so quando andremo, quanto andremo avanti noi, ma secondo me... Mi sa che il 15 faremo l'ultima puntata, o il 22 al massimo. Poi vedremo un po'. Yes. Vedremo un po'. Anche perché poi un po' di pausa di Natale ci vuole, no? Sì. Ci spostiamo in Canada. Sara mi segnala una bellissima notizia di quelle curiose. Sì, una notizia molto curiosa. Praticamente un pescatore, giusto? Pescatore o pescatrice? Pescatore. Pescatore era. Ha pescato, ovviamente pescatori pescano, questa aragosta con un mistero, dicono i giornali. Praticamente ha questo pezzo di Pepsi appiccicato sulla chela. O su, sì, comunque sì, sulla chela. Vabbè, insomma, però vediamo, scusami, l'immagine, facci strano, vedere, no? Un'immagine. Perché tu vedi proprio la ragosta rossa e sto Pepsi come se fosse tatuata. Ah, no? Però è vabbè, se è incollata sopra, vabbè. Magari qualcuno ha buttato una lattina. Esatto. Semplicemente quello è il problema, probabilmente. Sì. No, se è incollata sopra. E infatti, i rifiuti nel mare non sono né belli da vedere né, diciamo, molto salutari. Sì, se tu non so se tu hai letto le notizie che sono uscite adesso su Focus, tra l'altro questa è una notizia molto brutta. È la fossa delle Marianne, che sono 12.000 chilometri di profondità, hanno trovato i rifiuti. Oh, questa è una notizia molto, quindi molto brutta. È diventata la discarica del mondo, la fossa delle Marianne. Io, pure io comunque stavo leggendo che c'era una ragazza che ha fatto una foto, tra l'altro una foto sul fondale di una stella marina, e c'erano i rifiuti sotto la stella marina, si era tra virgolette appoggiata su un rifiuto. Infatti, è molto ovunque. Triste come cosa, perché... Infatti la foto della Pepsi di prima, diciamo della ragosta con la Pepsi, è diventata il simbolo della lotta all'inquinamento. Ma in realtà ci sono state anche delle altre foto molto belle. C'era una foto molto bella, ad esempio, cioè bella indicativamente, c'era questo cavalluccio marino, sì, che invece che utilizzare il substrato organico utilizzava un cotton fioc. E quello lì era molto strano, perché invece che stare attaccato al corallo, lui stava attaccato al cotton fioc. Si doveva pulire le orecchie. Vedi? Vedi la foto? Orecchie, no? Eccola qua la foto. Con la Crocs, cioè, sì, con la... No, beh, descrivetecela sta foto. C'è una ciabatta azzurra, sì, quelle che si usano al mare, quelle, sì, con i buchi, esatto, quelle... Con una stella marina appoggiata sopra, che fa vedere proprio la stella marina che convive con i rifiuti. Esatto. E questa è una cosa tristissima, secondo me. Mm-mm. Va bene, dai. Intanto riprendiamoci un attimino con un po' di muaggio. Stasera siamo troppo seri. Dopo infatti, devi cercare un po' di cavolate. No, no, ci pensiamo noi. Andiamo ad ascoltare Queens of Stone Age con The Way You Used to do. Mi stavo impappinando. International. Mi stavo per impappinare. To do. Gli animi si sono scaldati, eh. Io un po' di freddo ancora ce l'ho, eh. Vabbè. Ma sei vecchio proprio, adesso fatelo vengo, dire. Vengo ad alzare un po' la stufetta di là, sinceramente. Sto morendo di freddo stasera, di verità. Infatti, guarda quanti pinguini ci sono in giro, li potete vedere dalla webcam. Giusto, giusto, giusto, giusto. Ma domani inizia un bellissimo evento. Esatto. Ti colgo impreparata? Cosa inizia domani? Inizia il mercante. Mercante, no, in fiera. Non è il mercante in fiera. La fiera dell'artigianato. No! Il mercante in fiera è il gioco di Enrico Papi, no? Come si chiamava? Sì, con la gatta nera. Enrico Papi. Sì. No, è un gioco, sì, è un gioco di carte. No, è, invece inizia la fiera dell'artigianato. La fiera dell'artigianato. Che è un girone dell'inferno anche quello, secondo me, perché... Perché? Quando, è perché quando entri poi non sai mai quando esci. Sai, come i gironi dell'inferno, continui a girare, a girare, a girare. Però vedi cose che non vedi tutti che i giorni visto, che hai visto l'anno scorso, che però. Hai visto l'anno scorso. No dai, magari certe cose sono diverse. Poche, magari, poche novità, non so, l'anno scorso vedi, non so, il padiglione quello lì. Poi l'altro anno ti ne vedi un altro, insomma. Ma sai che, invece c'è un padiglione nuovo, ho letto? Sì. Sì. Ho letto che c'era appunto questo padiglione che hanno fatto quest'anno. Quindi non so cosa ci sia dentro. Non è dell'Italia comunque. Però è nuovo, quindi bisogna andarlo a vedere. Ho capito, ho capito. Vabbè, ci tocca, vabbè, un giretto me lo farò anch'io, piccolino però. Tipo, ti pieghi, No, entro e esco, perché non è ecco, tanta voglia. Lo sapevamo. Tu, Sara, andrai? Beh, ma penso di sì, forse lunedì il pomeriggio, perché lunedì di solito non dovrebbe esserci. Non fai nulla. Tanta gente. No, non dovrebbe esserci tanta gente. L'afflusso delle persone l'afflusso dovrebbe essere sicuramente domani. Beh, comunque lunedì molti negozi sono chiusi, ricordiamocelo. Infatti noi andiamo martedì, giusto? Pulitroppo sì. Tu andrai, io non si so. Sa. Vabbè, è così. E niente. Guarda un po' la prossima canzone, la conosci? I Believe I'm Fine, Robbie Schulz più Hugel. Non la conosci? No. Secondo me se c'era Katia. Io sapevo I Believe I Can Fly. Se c'era Katia, secondo me questa canzone qua la conosce. Sicuro. Perché è un pezzo che a me piace, non è troppo tamarro, però in realtà proviene da una radio che piace molto a Katia, che non possiamo nominare in questo momento. Allora ho capito che hai capito che pezzo ho capito è. Che genere è. No, il pezzo poi dopo dimmi se l'hai mai sentito o l'hai conosciuto. Okay. Noi l'abbiamo già suonato in Wolf Trips, sì. Però tu non c'eri. Va bene. Male, male, male. No, you don't need it as much as you used to, do you? You didn't think that I noticed it, did you? But I did, yeah. Your loving has a way of pulling me apart at the scene. But I don't believe that you're leaving. Cause remember when it was me that held you high when you're lonely, the guy you call when you're down. Remember when it was only me you'd want on the line, the one I trusted and only, the one I kept in the light. And if I keep it repeating, maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Right, right. To the question I asked you, that's on you. And I never question the answer you give me, but I should, yeah. Your loving has a way of making me forget all my senses. But I don't believe that you're leaving. Cause remember when it was me that held you high when you're lonely, that got you cold when you're down. Remember when it was only me you'd want on the line, the one I trusted and only, the one I kept in the light. And if I keep it repeating, maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright.

speakers in the face. Bath salt. Why you speakers in the face? Bath salt. Why you speakers in the face? Bath salt. Why you speakers in the face? Bath salt. Why you speakers in the face? Bath salt. Why you speakers in the face? Bath salt. Why you speakers in the face? Bath salt. Why you speakers in the face? Bath salt. Why you speakers in the face? I get it how I live it. Wait a minute. I live it how I get it. Count the motherfucking digits. I pull up with a lemon. Knocks and she ain't living. It's just your eyes get acidic. And this ain't a scrimmage. Motherfucker, we ain't finished. I told you we won't stop. A nigga by the business. Like guns with your grinning. Wave hello to the top. Nigga, the Vay run guy. Tell the paparazzi get the lens right. Got the window down top, won't lie. Got the hazard on, only going five. You can catch me. E questo qua è il pezzo dei Nerd. Chiamati Nerd, Fit Rihanna. Ah. Non so se l'avete mai sentito. Lemon, no. Rihanna, sì, dai, l'avete sentito. Sì, Rihanna. Sì. Tra l'altro, mi ricordo che questo pezzo qua, subito dopo, c'è un vuoto praticamente voluto dall'autore, quindi sono riuscito a entrare leggermente prima. L'ho fregato, questa volta l'ho fregato. Settimana scorsa invece me l'aveva fregato lui. Me lo sono ricordato, quindi sono entrato giusto. Va bene. Hai trovato qualche altra notizia interessante in giro per il mondo? Qua un po' di città cancella le piccole multe per incentivare le donazioni di giocattoli per Natale. Vabbè, solo per Natale però. Sì. Le multe non dovrebbero mai essere cancellate. Non si dovrebbero neanche fare, dai. Infatti, partendo da questo presupposto, comunque... Vabbè, io sarei contenta di donare un giocattolo di Natale invece al posto che la di una multa. Certo, voglio. È una bella iniziativa che secondo me dovrebbe essere messa in pratica. Da noi non da lo noi. Faranno mai una cosa del genere. Non c'è lo stato dove lo fanno? Secondo me non è Italia. No. Sicuramente non è Italia, guarda. Ci scommetto quello che vuoi. Pennsylvania. Ecco. In Pennsylvania. Vabbè. Ci dovremmo trasferire in Pennsylvania, allora. Va bene. È una città più generosa della nostra, dai. Sì. Visto che da noi mettono sempre questi diamine di tutor arancioni ovunque. Che poi, vabbè, non so se funzionano o meno, però... Ma no, in Pennsylvania fa freddo. Sì. Pennsylvania. Pennsylvania non lo so. Non lo so, adesso ti dico, aspetta. Credo che la vita non costi molto, ma bensì un penny. Ah ah ah. Vabbè, dopo questa... questa proprio veramente... È uno stato federato degli Stati Uniti d'America. No, beh, dai, New Jersey, no, insomma, non no, è... No, secondo me... Allora, Cristina, non fa per te, devi andare in casa. Ma sai che, caspita, io quest'estate avevo letto di un lavoro al Polo... Sì? Stagionale. Ma pensa. Io ci ho pensato, sai, a trasferirmi. E cosa dovevi fare? E niente, dovevi stare a controllare, insomma, questa eri in un cottage... E dovevi controllare. Dovevi guardare gli acciai. Bello. Sì, tipo custode. Sì, tipo custode, ah. Brava. Il custode degli acciai. Brava. E non sarebbe stato male come. Né come location, perché né come comunque lavoro. Si sta bene, sai. Ma ci sono un po' di lavori anche. Ci sono un po' di lavori particolari. Dopo te ne narro uno che avevo letto che non era male, secondo sì. me. Sì. Come custode. Però sai, il mio... Vabbè, il tuo sogno è quello, ma non ci possiamo fare niente. Ci spostiamo adesso in California. E il cantante Beck, che aveva fatto già un sacco di pezzi all'epoca. E questo qua, il brano si chiama Up All Night. Abbiamo già ascoltato. Sentiamo. Non mi dispiace. Ti dirò dopo. When you quit the way the members don't make you cold. When they break it down in this world is all you know. Hands up and working it and look at yourself together. When you call the dominoes fall, it's time to go. intanto ho fatto la carica di vitamina C. Ah, bravi, sì, sì, sì, sì. Di là si mangia, bravi. No, beh, ci siamo rifocillati, dai. Ci siamo io qua a morire di fame. E voi, bravi. Tra l'altro, devo ancora decidere cosa mangiare, ma sinceramente non so cosa mangio. Te lo dico ma già. Io. Te lo dico siccome già. Fa freddo, mangiamo la vitamina C, una bella arancia. Sì, infatti, così. Infatti. Così non ci ammaliamo. La congelata, tra l'altro. Mamma mia. Poi adesso c'è ancora più freddo di prima, devo dire la verità. Ecco. Ma una cosa sola, ma sta neve, quindi niente. Ma sta neve. Speriamo di niente. Fuori, sono andata prima a vedere. Ma in università c'è il sale. Sì, è vero, infatti dicevo che si può ma fare la pasta. Ma oggi la davano, sì. Ma allora, so che al Capo dei Fiori ha nevicato. Io so che anche a Domodossola l'ha nevicato. Oh, allora prima o poi arriverà. Comunque io spero non arrivi. Speriamo poi. No, io spero di sì. No, perché assolutamente no, poi ci sono casini col treno, no. Vabbè, ma voi siete proprio... Vai a piedi, no? Sai dove... Parti oggi e arrivi domani. Sai dove è bella e perché è bella la neve? È bella in montagna e è bella per chi sta a casa per guardare dalla finestra. O se devi sciare, se devi fare insomma attività o andare col cane sulla neve e rotolarti. Basta questo. Io mi sono sempre arrangiata, sono sempre andata in giro certo, anche con la neve. Sì, quindi sì, quello sì. Però direi di sì, insomma. Sì, sì. Però quando devi iniziare a fare 100 km con la neve, te voglio vedere. Perché poi se devi prendere il treno ci sono disastri dal treno prima. Comunque quindi... nelle zone di montagna sono più organizzati infatti, di noi. Infatti è bello vedere la perché neve in montagna. Oggi notizie da fonti insomma a me vicine hanno detto che 10 minuti dopo c'era già lo spazzaneve. Ah, vedi, questa è una buona ma cosa. Ma infatti, continuo a dire, la neve è bella in montagna, esatto. Non a Gallarate, non a Samarate. No. Vabbè, ma qua sono... Perché non siamo attrezzati e per mille motivi. Ecco. Va bene, dopo questa parentesi meteorologica, che tra l'altro poi tra poco ci darei anche qualche news, no? C'è l'aggiornamento solito Epson Meteo. Infatti, infatti. Dovresti mettere la sigla. Ciao, l'avevo preparata la sigla, ma in realtà non è del tutto pronta. Adesso però facciamo i miracoli e prepariamo anche la sigla. Va bene. Prepareremo anche intanto la sigla. Intanto andiamo ad ascoltarci la prossima canzone. Vai, vai, è questa qua. Asley. Ok. Bad at Love. Ok. And it tastes like Jack when I'm kissing him. So I told him that I never really liked his friends. Now he's gone and he's calling me a bitch again. There's a guy that lives in a garden state, and he told me that we make it till we graduate. So I told him that the music will be worth the wait, but he wants me in the kitchen when the dinner plate. I believe that we're meant to be. But jealousy, get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, I always make the same mistakes, cause I'm bad at love, ooh, ooh. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one, ooh, ooh. That could finally fix me. Looking at my history, I'm bad at love. Got a girl with California eyes, and I thought that she could really be the one this time. But I never got the chance to make a mind, because she fell in love with little thin white lines. London girl with her attitude, we never told no one, but we look so cute. Both got way better things to do, but I always think about it when I'm riding through. I believe that I'm in too deep. Jealousy, get the best in me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, cause I'm bad at love, ooh, ooh. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one, ooh, ooh. That could finally fix me. Looking at my history, I'm bad. You're afraid I'm gonna walk away. It's time to feel and face. You know I'm bad at love, but you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one, ooh, tanto c'era un po' di corsa oggi. A me non ti scaldi un attimo, no? Vedevo che ti saltavi da un bancone all'altro oggi. No, dai, non è vero. Sì, oggi si sta divertendo. Sì, devo fare avanti e indietro che fa freddo. E oggi, oggi è una serata un po' così tranquilla, a proprio. Sì, a caso, a caso. Notizie a caso. Infatti, avete altre notizie a caso, peraltro? Ma... per adesso non stavo guardando, stavo pensando ad altro. Alla neve che non c'è, che mi sta... Mannaia la neve, mannaia. Poi apri e guardi e vedi il paesaggio. Ah no, io volevo parlare, tanto stiamo parlando di cose a caso, no? Quindi, sì. Allora, sapete che la domenica sera c'è una serie bellissima, no? Su Canale Rosie 5. Rosie Abbate. Allora, io ho visto un video parodia di, ecco, Rosie Abbate. Volevo parlare proprio di quello. Quale? Quale intendi? Del video che mi hai raccontato. Sì. Allora, praticamente questa qui, cioè questa attrice che faceva Angelic, forse, non mi ricordo. Non lo so. Questa comica che assomiglia, ti giuro, assomiglia a Rosie Abbate. Ma veramente? Una è siciliana, quindi il dialetto è quello. Ciao. E poi c'è la faccia, proprio poi ha proprio i capelli ricci, proprio uguale. E però... niente, ha fatto una parodia su... Guardala, guarda. Guarda, no, ma volendo posso proprio... anche metterne un pezzettino. La controfigura. non tutta perché è un po' lunga, però vai. Vediamo se... Claudio, guardami negli occhi e dimmi, dove me l'hanno portato? Rosy, io non lo saccio dove te l'hanno portato, però ti posso assicurare che è ancora tutto intero. Ah! Che è ancora sano, Claudio, lo dobbiamo trovare a tutti i costi. Ma ne sei sicura? Certo che ne sono sicura, minchia. E io pur di trovarlo sono disposta a tutto, perché quello è il mio panino. Quindi è la storia della la ricerca del panino. È la storia alla ricerca del dietologo che gli deve dare il panino. Ah, però. Ho capito. Esatto. Sì, comunque effettivamente ci prende parecchio. Sì, dai. Ci sta. Però scusate, ma Rosie Abbate. Ah, io non lo guardo. Non ce n'è. No, ma tu sei snob su queste cose. No, ma perché la domenica di solito ho iniziato una nuova serie TV con un caro ragazzo e quindi... Con un caro ho iniziato ragazzo. Gomorra. Ah, ok. Sei sì, arrivata... ma ecco, Gomorra, poi dopo chiudiamo, lasciamo un po' di suspense. Non... Chiudiamo la serie dei Teroni. Non si capisce. Ma non si capisce niente. Cioè, io capisco. Cioè, io non riesco a capire niente, veramente. È una cosa impressionante. Adesso vedo se riesco a trovare un qualcosa, ma non si capisce niente. Cioè, se non hai sottotitoli, non riesci a capire. No, ma non sto scherzando, Adesso dopo cercherò qualcosa e ve lo faccio sentire, ma è una cosa impressionante, davvero. Basta che non metti cose della terza stagione perché io sono arrivata alla seconda. Era quella spoiler. Della quarta, infatti ho spento subito. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano e poi magari vediamo se riusciamo a metterci in contatto anche con... Il buon Fabio. Vedremo, non lo so. Vediamo se riuscirà a parlare la coppia Fabio e Domingo. Andiamo ad ascoltare Dua Lipa e New Rules. Che poi tra l'altro quella coppia lì non è bellissima in questo periodo, Marca male. Già. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times. My love, he makes it feel like nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, kick him out again. Free, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count them. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. No way to turn. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved. But my love, he doesn't love. Don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you have to kick him out again. Era Dua Lipa con New Rules. Tra l'altro mi stavi raccontando una cosa interessante. Potevi, sì, anche ripeterla adesso. Giustamente. Allora, praticamente ho scoperto su Facebook che c'è questa pagina che si chiama Frida. Non so se conoscete l'artista Frida Kahlo. No. Sì, comunque l'ho già sentita. Si ispira molto a questa artista Frida Kahlo, che era un'artista degli anni, degli anni del Novecento, e era molto rivoluzionaria. Mm. E quindi parla un po' del potere delle donne, di questa... di tutte le ragazze rivoluzionarie, no? E lei, insomma, come mi diceva anche Domenico, il suo insegnante di musica non era, non voleva che lei cantasse. Insomma, non gli diceva che secondo lei, secondo lui, la musica, insomma, non doveva essere, non era per lei. Ah. Comunque no, questa pagina è molto bella, ti consiglio di vederla. Proprio parla, non si so, chiama Frida. Frida, scritto F-R-E-E-D-A. Però okay, andiamo, okay. Adesso andiamo a vederla quando... Va bene, va bene. Andiamo a ascoltare il prossimo brano e poi dopo rientriamo. Sì. Però diciamo che Fabio dobbiamo solo salutarlo, non possiamo sentirlo. Sì, sì, infatti. Va bene, andiamo a ascoltare il prossimo brano con Sophie Tucker, Best Friend. I think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two, we don't need to describe. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot. Yeah. Yo, you wanna meet me in the lounge? Yeah. Yo, you wanna meet me in the club? Yeah. Yo, you wanna meet me downtown? Okay. Yo, you wanna meet me in the east? Yeah. Yo, you wanna meet me in the west? Yeah. Yo, you wanna meet me on the block? Yeah. Yo, you wanna meet me at the spot? Okay. Think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two, we don't need to describe. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot. That's the way it is. That's the way it goes. It's just a two. Tokyo. E un'ora l'abbiamo già passata. Cristina se ne viene con questi suoni. E perché c'è stato Igor, giusto? Allora sì. Ti sei ricordata dei cani. Che bello. Comunque, stava dicendo Sara che c'è questa bella pagina su Facebook, Frida. E andiamo. Dopo vado a vederla e vediamo un po'. Sì, no, è molto bella. Ci sono vari interventi di ragazze. Ma sai che puoi partecipare anche tu? Cioè, ad esempio, non lo so, si parla un segreto che non hai mai detto ai tuoi genitori, per dire. Ma cose di qualsiasi genere. Oppure, non so, si parla di coppie. Si parla di tutto quello che riguarda la donna. Quindi anche di poker. Allora, lì c'è la porta. I nostri ascoltatori non la vedono, però lì c'è la porta. Vabbè. E no, niente, stavo dicendo di questa. Vai a vedere se nevica. Dimmi. E no, niente, abbiamo detto di questa. Della cantante Dua Lipa, di quello che aveva detto. Mi aveva detto prima Domenico, che io non sapevo. Sì, che praticamente il suo professore di musica. Aveva detto a Dua Lipa che lei era meglio che lasciasse perdere il canto, dato che la sua voce faceva un po' schifo. Sì. Ma sai che in realtà, cioè, tante persone, diciamo, di successo prima si sono sempre dette, cioè si sono sentite dire, sbattute le porte in faccia. Esatto. Così, dai, così. Quindi chiudiamo il discorso. Il brano di prima invece l'avevi già sentito? Dai, sì. In qualche. Sì, sì. Ormai ce lo stiamo propinando da un po' di tempo, dai. Sì, ma quello dopo è ancora più bello. Quello dopo ancora. Sì, no, adesso arriva. Adesso arrivano quelli belli. Intanto abbiamo l'ultima mezz'ora, ma il meteo le arrivò. Ah, il meteo è arrivato. E allora, se le arriva e vogliamo parlare, devo lanciare la sigletta. Sigla. Vai. La lanciamo? Vai. È bellissima questa sigla. Buonasera. Sì, infatti è giusto. Buonasera. Giusto. Allora, il meteo di domani. Ti senti un po' giuliaci. Sì, infatti. Il meteo di domani da cielo coperto, temperatura minima di 0 e massima di 6, quindi potrebbe nevicare. Potrebbe nevicare. Qua infatti la dà, però non lo so. Ne dà poca, ma secondo me non Geneminga. A meno che non ci grazi e ci faccia vedere un speriamo po' di no, speriamo che non ci grazi. Vabbè, ma tanto domani cosa devi fare? Dobbiamo uscire alla sera, ti ricordo. Guidi tu, andiamo con la tua macchina, io te lo dico. Perché esci con me? Sì. Guidi tu. E vabbè, faremo questo sforzo. Dai, Sara, visto che ti piaceva, lancia il prossimo brano, che mi ricorda tanto una merendina, questo brano. Perché la merendina? Che merendina ti ricorda? Sì. Perché è il diciamo la damn song di una famosa merendina. Sì, non di una pubblicità. Di una pubblicità di una merendina. Dai, no, non lo so, no, questa qua non la sapevo. Però la vogliamo sapere, no, la diciamo dopo la musica, dopo la canzone. Sì, va bene, okay. Dai, così magari intanto qualcuno la riconosce. Intanto ce l'ascoltiamo. Sì. Intanto scriveteci se riconoscete la merendina al 338-222-8983. Sì. Andiamo ad ascoltare More Than You Know di Axwell. È in grosso. Anche questo lui c'è. Non l'avevo visto. Speak up if I got something to say, 'cause it ain't over to tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free. Cause it ain't over until she sings. She sings. Come a little closer, let me taste your smile. Until the morning light. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. I just need to get it off my chest. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. You should know that baby you're the best. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Non me la ricordo qual è la pubblicità, ah, no. Non me la ricordo. Però guarda, l'avevo sentita anche prima di venire qua in radio. Quindi è pompatissima in questo periodo è in recente, TV. Quindi. È molto recente, molto recente. C'è tipo la ragazzina che porta via i suoi giocattoli, dice: ah, ma no, ma questi non li voglio più perché devo scegliere la merendina. Sì, non ti ricordi neanche che merendina è? No, no, niente, non mi ricordo, zero. Non mi ricordo. Ai ai, mi caschi sulla merendina. L'Alzheimer è una brutta caspita, cosa. Caspita, e sì che tu. Le merendine. Io le merendine ci vado proprio a nozze. Sì, sì, cara mia. Cara lo sappiamo, lo sappiamo. Mia, io non posso prendere le paradiso perché sennò. Mamma, che buone! Le paradiso buone. Non arrivano neanche a casa. Infatti, ieri le volevo prendere perché. Volevo. Cioè, una volta ogni tanto sì, è certo giusto, ci sta. Ma mi è stato vietato. Assolutamente. Ne avrei mangiate 4 alla volta, sei tutte insieme proprio. E poi cioè, sono così soffici. Ti danno. Morbide. Ma secondo me c'hanno qualcosa di chimico tipo qualche droga. Sì, c'è qualche droga all'interno. Perché ti danno un momento anche di sballamento. Andiamo a ascoltare il prossimo brano. Adesso andiamo un po' veloci e ascoltiamo così, riusciamo a ascoltarli un po' tutti. Intanto cercate le ultime notizie proprio caccose caccose. Questa pubblicità. Non possiamo dire qual è la pubblicità. Si può descrivere, dai. Per una tele. Per una compagnia telefonica. Compagnia telefonica. Telefonica. Tra l'altro, è una canzone che si cantava anche. O Federico Ale, adesso non mi ricordo. Forse Ale. Che la bellezza dei suoi 2 anni già canticchiava questa canzoncina qua. No, 2 anni e mezzo, dai. 2 anni e mezzo. Fa morire. Andiamo a ascoltare Imagine Dragons con Thunder. Pezzo preferito anche da Tony. Ah sì, ci sta ascoltando, lo salutiamo. Non lo so. Vabbè, però noi lo salutiamo comunque. Ciao Tony. A bigger things ain't wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder. My classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Va bene, va bene. Quindi dice Thunder, Thunder, Mander e tutte le declinazioni di Thunder. Esatto. Me. Però questo video, anche questo video è molto bello. Sì, sì, sì, i loro video sono tutti belli. Sì, è vero, non sono è vero, male, è vero, non sono vero. Male. Peccato che il loro concerto del 2017 sia già passato, perché è stato a luglio. Mi ricordo perché una mia amica è andata a Verona. E forse nel 2018 in Italia non ci sarà nessun concerto. Quindi peccato, perché mi stavano piacendo. Sì, loro sono ormai super lanciati, sì. Penso che non abbiano molto tempo di venire in Italia. vabbè, però cavolo, cioè, vabbè, era stato un bel concerto con l'Arena di Verona, quindi sì, era sì, sì, molto sì, bello. Una roba proprio dei big. Intanto vedo la Cri che non preferisce parola, quindi secondo me o ha trovato qualche minchiata enorme o niente, non ha trovato nessuna notizia potente. Noi ci stiamo ascoltando le canzoni travisate, qua, ma non possiamo farle ascoltare. Le news più, allora, in California. Il sito è le news più strane, tra l'altro. Vabbè. Le news. Aspetta, va. Allora, in California praticamente sono comparsi dei cartelli stradali con dei messaggi per gli automobilisti. Con scritto respira, rilassati, non dire le parolacce. Cioè, praticamente c'è il Vangelo scritto, sì, nei cartelli. Sì, praticamente sì. Beh, no, è una cosa positiva, è rassicurante al posto del linguaggio negativo, insomma. Sì, sì, sì. Invece sì. Che dire le parolacce, insomma, dai, è una cosa. Si vedere se funziona. Infatti. Ma anche a Napoli hanno provato, poi si sono volati via i cartelli. Ah, a proposito di Napoli, abbiamo prima parlato di Gomorra, no? Del dialetto che... Allora, cioè, tu da bravo calabrese, insomma, qualcosa dovresti conoscere, qualche rudimento. Infatti, no. Stavo dicendo prima che se devo guardare Gomorra e non ho dei sottotitoli ben chiari, non capisco assolutamente nulla. Allora, fin quando, cioè, io l'ho vista fino alla prima, mi hanno detto che dalla seconda in poi in realtà non si capisce tanto. Però io per ora ho capito, poi vedremo. Si vede che sei proprio terrona. Ha parlato. No, io sono del nord, non si sente la. Sì, di Bolzano. Sì. Treviso Nord. Nella parte nord. Intanto, vabbè, andiamo avanti con un po' di musica. LCD Sound System. Non so se hai mai sentito altri brani degli LCD Sound System. No, conosco i Sud Sound System. No, quello è un altro genere. Non è male nemmeno quello. Qualche giorno magari ti farò sentire in radio anche il brano quello lì calabrese rap che ti ho voluto sentire. Adesso lo ricerco. E il brano invece, questo qua degli LCD Sound System, è Tonight ed è un brano molto elettronico, molto carino, e ci abbiamo verso la fine. Ormai sono le 9:18. Everybody sing the same song. It goes tonight, tonight, tonight, tonight, tonight. I never realized these artists thought so much about dying. But truth be told, we all have the same end. Could make you cry, cry, cry, cry, cry. But I'm telling you, this is the best news you're getting all week. Oh, sure, it's ruling the airwaves. But what remains of the airwaves? And we're frankly thankful for the market psychology you're hipping us to. But all the hits are saying the same thing. There's only tonight, tonight, tonight, tonight. Man, life is finite. But should it feel feels like forever. It feels like forever. Dato che Wolf Trips era nato come programma elettronico, poi l'abbiamo un po' stravolto, qualche pezzo elettronico ogni tanto ce lo ascoltiamo, dai, qualcosina di elettronico lo mettiamo lo stesso. Eccoci, ascolta. Dimmi un po', va, hai trovato le ultime cavolate da dire? Guarda, a Singapore sì. Ci sono pochi crimini sì. Che la polizia indaga su questo, indaga sul perché ci sono pochi crimini. Non ci credo, l'ha letto Lercio. È come in Gotham, quando c'era Batman che aveva fatto fuori tutti i criminali e non sapevano più cosa fare. È veramente, cioè, che roba. Ma avevi trovato anche un'altra notizia interessante, giusto per chiudere, perché siamo quasi in chiusura, quindi diciamo, il momento per l'ultima notizia è adesso. C'è la notizia quella del tizio che aveva venduto la casa. Cioè, perché c'è la gente, diciamo, che qua viene rapita dagli alieni e vende casa perché è stanco di essere rapito dagli alieni. Certo, certo, giustamente. Tra l'altro anche recente, dei primi di novembre, quindi è un po' come da noi pure. Invece siamo stanchi in Arizona, è successo. È un po' come noi, siamo stanchi dei furti, lì sono stanchi di essere rapiti dagli alieni. Tra l'altro 40.000 metri quadri è stata messa in vendita per 5 milioni di dollari, quindi beh, insomma, 40.000 metri quadri. Un ranch di 10 acri però, l'elico, Infatti è grande quanto Gallarate. Infatti. È un po' grande alla faccia. Io sarei contenta di fare questo affare. Alieni, venite a rapirmi, cioè. Ma guarda che, allora, io a volte guardo le cose su Focus, no? Sì, a me viene tanto da ridere, però, cioè, poi guardi le foto, non sai, io non so se crederci, no. Io penso che, cioè, secondo me qualcosa, non lo so, Ma a me tutto questo fatto qua che devono essere, adesso non voglio fare la parentesi filosofica perché non c'è Fabio, però no. Però dico, a me tutta sta cosa che devono nascondersi, cioè, no, se ci, se ci, ma infatti, ci sarebbe, ci fossero stati, sì. Se ci fossero stati, no, si sarebbero fatti vedere da mo. Cioè, figurati, non penso. Guarda, allora, su questo programma su Focus che guardo io, praticamente, cioè, questi ufologi sostengono che, sai, le piramidi di Cheope, tutte le cose che sono state costruite nell'Egitto, il periodo degli Egizi, insomma, dicono che siccome in alcune raffigurazioni tu guardi questi dischi, no? Vedi il faraone, vedi, non so, un disco. E allora loro sostengono. Ma secondo me qualcosa c'è. Perché sì, ma perché non si devono essere l'unica forma di vita? Ma cioè, perché si devono nascondere? Quello è il discorso. Se riescono a venire qua, sono molto più potenti. E noi perché di noi, non riusciamo ad andare là? Appunto, sono molto più potenti di noi se riescono a venire qua. L'unica cosa a cui credo io, giusto per chiudere la serata, sono le sfere luminose. Che invece, secondo me, no, è vero. È una io cosa... credo nelle scie chimiche. No. Io credo in. Beep. Va bene, va bene. Allora, chiudiamo allora con gli Imagine Dragons e poi saluteremo. Comunque, questo signore qua vende la casa, la piscina e il flusso di extraterrestri. Ah, beh, questo... No, dicono che avevano fatto una volta, fecero lievitare sua moglie nel letto della camera. Levitare, visto che mi volevi correggere. Perché lievitare la pizza. Levitare, c'è scritto. Oh. No, tu hai detto lievitare prima. Lievitare. Vabbè. Comunque cercavano di attirarla nel parcheggio, stavano cercando di portarla là e lui... All'Akbar. E lui praticamente ha aperto il fuoco, è andato fuori e ha aperto il fuoco. Poi non si sa come, non è dato sapere come sia finita la storia. Però c'è un link di YouTube, io lo aprirei. Ma mentre ascoltiamo la musica, dice di aver postato sulla sua pagina Facebook foto di cicatrici e quindi di avere anche combattuto con questi extraterrestri. Ma pensa a te. Quindi sono veri. Quindi lui ci dimostra che sono veri. Adesso si è stufato di combattere con questi alieni e vende casa. Sembra una canzone dei Meganoidi. Vabbè, visto che non mi piacciono gli Imagine Dragons in questo periodo, andiamo a ascoltare l'ultimo pezzo di oggi con Imagine Dragons. Whatever it takes. It takes. Il video è bellissimo. Bello. Guardalo che veramente l'ho già visto. Perché quando me l'hai detto tu di vederlo, bello. Molto molto bello. Fast, prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a race horse. Pull me like a rip cord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Let it that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Cause I love the adrenaline in my veins. I'll do whatever it takes. Cause I love how it feels when I break the chains. I'll do whatever it takes. Oh, take me to the top. I'm ready for whatever it takes. Oh, cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes. Got a fear of being typical. Looking at my body feeling miserable. Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my ears like a martyrdom. Everybody wants to be a part of them. Never had enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip. slip, slip. Word upon your lip, lip. Letter that you rip, rip. Break me down and build me up, whatever it takes. Cause I love the adrenaline. I'm hypocritical, egotistical, don't wanna be the parenthetical, hypothetical, working hard on something that I'm proud of, out of the box, an epoxy to the world, the vision we've lost, I'm an apostrophe, I'm just a symbol to remind you that there's more to see, I'm just a product of the system, a catastrophe, and yet a masterpiece, and yet I'm half diseased, and when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily, and leave my body and my soul to be a part of thee. I do what it takes. Del lupo. E dopo una giornata praticamente, no, una serata diciamo passata sul divano, perché oggi è stata una puntata tipo dal divano, no? Ma no, guarda, noi ci stavamo scambiando un po' di cultura. Sì, infatti, di... no, infatti non sto dicendo sì, cultura, no, alcune non... strane. Oh, ma lo sai che è questo? Lo sai che è l'altro? Comunque, volevo dirvi che oggi è il Trash Day, eh. Ma dai. No, Trash, il Trash Friday. Oggi è il Trash Friday. Ci credo. Che no, dopo il Black Friday arriva il Trash Friday, cioè dove certo. Buttare via tutte le cose inutili che sono state acquistate. Non ci credo. Ve ne dico due e poi dopo magari le leggiamo. Black Friday. Sì, sì. Ne dico due o tre giusto per perché poi dopo ne parliamo la settimana prossima. Tipo l'hard disk che cambia capienza in base al meteo. Il rossetto della Bostik. Il depilatore di peli sulla lingua. Quello è bello. L'aspirapolvere per uso piscina. Non la ci pala... credo. Leggi la 14. Diamante luccicante che riflette il portafoglio vuoto. Però vabbè. Questa vince. Estratto di litigio tra Apple e Samsung. Burro umano di Giuliano Ferrara. Va bene. Dopo queste cavolate Skateboard fa vedere utilizzabile con giacca e cravatta, sì, sì, anima sì. Di un trapassato. Questa non la leggiamo. Va bene. Abbonamento a Netflix per vedere le nuove stagioni di House of Cards, che ovviamente non ce ne sono più. Vabbè, comunque era lercio.it, era sponsorizzato da lercio.it. Lo sapevamo. Vabbè, chiudiamo la serata. Adesso settimana prossima ci sarà un mio amico per essere intervistato, tornerà anche Fabio. Quindi Fabio, la serietà, ti aspettiamo. La serietà va un po' a quel paese, però non è che ci tra dispiace. Tra l'altro l'abbiamo sentito prima. Stava magnato. Abbiamo detto, ma magari vuole intervenire nel nostro programma. No, invece era lì con le forchette in mano. Sì, mi ha detto, guarda, sono al locale, mi sto rifocillando. Sì, ho detto, sì, vabbè, sì, alla facciazza nostra. È altolocante. Tra l'altro sempre... Sempre? Sì, in un ristorante sempre nelle zone di Milano. Nell'Interland di Milano, o proprio nel milanese. Non è... Proprio milanese, top. Sì, infatti. Sì, sì, sì. Ristorantino. Vabbè, siamo solo noi che andiamo a casa a mangiare. Oggi ho detto solo una volta vabbè, in questo momento mi sono reso conto. Devo togliermi questo vizio del vabbè. E niente, facciamo i saluti. Quindi salutiamo la Cri che se ne va a dormire o a mangiare. Salutiamo Sara che se ne va a dormire. No, perché c'è la pentola di funghi che ho lasciato. Ah, pensavo di fagioli. Io mi saluto. Poi stanotte, se mangi fagioli stanotte, diccelo, avvisaci che ci prepariamo tutti al terremoto. Vabbè, io vi saluto, mi saluto da solo e come direbbe qualcuno, addio. Ciao Domingo.